Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, bentornati ai nostri ascoltatori a questa rubrica dedicata ai libri di economia. Questa sera parliamo di due libri che hanno più o meno lo stesso sommario. Il primo si chiama Oltre il capitalismo ed è di Roberto Bosio. Buonasera, professor Bosio. Buonasera agli ascoltatori. E il sommario è Proposte per uscire dalla crisi sociale, ambientale ed economica, così come un sommario più o meno simile, Idee e percorsi per uscire dalla crisi, e anche il libro Impresa sociale del professor Giorgio Fiorentini. Buonasera, professor Fiorentini. Buonasera, buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori. Grazie mille. Io partirei da Roberto Bosio, professore, insegna in una scuola superiore di Torino, scrive articoli, riviste e libri anche dedicati all'economia. Questo libro, dicevamo con il professor Bosio, è un po' un compendio del suo percorso, delle sue analisi e degli ultimi anni, un po' sul tema della globalità, del sistema economico complessivo, e di titolo Oltre il capitalismo dimostra anche un po' la tesi conclusiva. Professor Bosio, lei pensa che il capitalismo ormai abbia fatto il suo tempo, professore? Certo, in realtà l'unica differenza che mi divide, diciamo, dagli intellettuali che anche ho intervistato in questi anni è il fatto che mentre loro continuano a pensare che questo sistema non si possa riformare, io credo che ci sia necessario un lungo cammino per cambiare alcuni elementi della natura del capitalismo, come ad esempio l'impatto sulla natura, ma che questi cambiamenti possano essere significativi, cioè portare a dei miglioramenti solo se sono progressivi, come dire, non si può cambiare da un giorno all'altro e trasformare radicalmente un sistema che poi abbiamo tutti contribuito a creare. Quindi una progressività di intervento in cui peraltro l'intervento pubblico diventa fondamentale. Lei provocatoriamente dice addirittura in un capitolo rendere illegale la povertà. Che cosa intende? Ma questa è, diciamo, un'idea mutuata da un intellettuale abbastanza conosciuto, cioè Riccardo Petrella, che immaginava appunto come fosse possibile cercare di cancellare o almeno ridurre notevolmente il gran numero di poveri che ci sono in tutto il mondo, se ci fossero delle dichiarazioni prese naturalmente dai grandi della terra in summit sul dichiarare illegale la povertà. Automaticamente significherebbe che a livello politico bisognerebbe prendere degli impegni molto forti per la loro riduzione, mentre invece adesso, diciamo così, la situazione viene solo tirata fuori una volta ogni morte di Papa, con degli impegni che rimangono spesso solo sulla carta. Quindi non tanto mandare in galera i poveri quanto mandare in galera coloro che rendono poveri le persone. No, non tanto mandare in galera, significa obiettivamente cercare delle soluzioni, per esempio un aumento delle spese di aiuto al terzo mondo potrebbe ad esempio permettere di ridurre, se non cancellare, molti fenomeni come ad esempio le pandemie di AIDS nell'Africa, o ad esempio le pandemie che ci sono di altre malattie in buona parte, diciamo, dei paesi sottosviluppati rimasti. Logicamente aumentando l'aiuto al terzo mondo si potrebbe ad esempio ridurre notevolmente l'analfabetismo e permettere magari a un po' più di persone, ai cittadini di persone che non hanno di che mangiare, di poter sfamarsi. Ovviamente è solo una parte di quelle che dovrebbero essere le proposte per risolvere la situazione. Il cammino sarebbe lungo e complesso e un libro solo non basta per vedere tutto quello che c'è da fare. Ecco, indubbiamente, però lei, se posso fare una critica, mi sembra che sottovaluti un po' il ruolo dell'educazione. Non è forse più che portare degli aiuti, portare un'educazione ai paesi sottosviluppati e soprattutto alle classi dirigenti di questi paesi, che possano sfruttare meglio le loro risorse? Certamente l'aspetto come le sottolinea è importante, evidentemente, però la questione che io ponevo è semplicemente questa: in realtà negli ultimi 20 anni l'aiuto che è stato portato a queste popolazioni in termini di percentuale sul PIL è una cifra ridicola, no? Si passa dallo 0,12-0,13 di paesi come l'Italia allo 0,20 in rapporto al PIL degli Stati Uniti e solo i paesi scandinavi raggiungono dei livelli dello 0,7%. Ovviamente per riuscire a migliorare la loro istruzione, per riuscire a migliorare il loro sistema sanitario e tutto, c'è bisogno di investimenti. Gli investimenti devono esserci, solo quello. Poi oggi naturalmente non ci sono. Ecco, grazie dottor Bosio. Io da questo aspetto appunto generale passerei a un'analisi più nazionale, diciamo, ma che coinvolge indubbiamente anche il sistema economico nel suo complesso, che è quello sull'impresa sociale. Giorgio Fiorentini è responsabile del settore imprese sociali e aziende non profit della Università Bocconi, oltre che responsabile scientifico del Master in Management delle imprese sociali. Allora, innanzitutto, professor Fiorentini, che cos'è l'impresa sociale? Ma l'impresa sociale è una formula imprenditoriale privata. La dizione esatta è che un'organizzazione che scambia beni e servizi di utilità sociale per l'interesse generale, senza distribuire gli utili. Questa è la dizione che deriva dalla norma, da leggi, una è la legge 118 del 2005 e un'altra è un decreto legislativo 155 2006. Che cosa consiste la proposta? La proposta consiste in questo: molte imprese sono in crisi, lo stiamo vivendo, leggendo, sentendo, abbiamo molti disoccupati e così via. La proposta è che quote parte di queste imprese che devono, di cui i dipendenti vanno in cassa integrazione guadagni oppure che poi sono spesso l'anticamera della disoccupazione, si possono creare delle imprese sociali che possono essere e associazioni e fondazioni o anche SRL o SPA senza distribuzione di utili. Tutto questo perché si permetterebbe di avere, di produrre, di commercializzare una serie di prodotti che vengono messi sul mercato con dei prezzi che sono anche inferiori rispetto a quelli che normalmente devono essere, voglio dire, calcolati a fronte della massimizzazione del profitto. Ecco, ma che cosa si può fare per favorire questo tipo di imprese che ovviamente dovrebbero perseguire una logica che non è strettamente quella di mercato? Ma quello che si deve fare è quello di incominciare a fare degli spin-off all'interno delle imprese profit, fare in modo sostanzialmente di creare, voglio dire, queste imprese sociali anche magari in collaborazione con le regioni, per esempio, che comunque si trovano di fronte alla disoccupazione e possono intervenire con gli ammortizzatori sociali oppure devono incominciare a trovare anche ulteriori, voglio dire, strumenti. L'impresa sociale è uno strumento, io l'ho chiamata saving company, cioè una specie di impresa, voglio dire, di salvataggio. C'è una domanda però che ci si pone, se l'impresa di profitto non riesce ad avere mercato, cosa facciamo? Creiamo un'altra impresa che va sullo stesso mercato? No, il concetto è che può andare su mercati diversi, per esempio energie rinnovabili ed altro, oppure può andare sullo stesso mercato ma con delle linee di prodotti che sono per esempio dei white label, delle seconde etichette, insomma, che permettono cioè all'impresa in crisi, quella di profitto, di continuare a mantenere comunque l'attività delle persone che poi sono in cassa integrazione guadagni, per poi, una volta che è passata la crisi, riprendere, voglio dire, la sua attività, voglio dire, di tipo normale e tradizionale. Questo è un fatto molto importante. Io vengo ora da una riunione dove c'è una impresa tessile di medio-alta grif che è in crisi e che sostanzialmente deve mantenersi sul mercato. Ecco, l'impresa sociale vuol fare questo. Il tutto per un motivo anche, perché l'impresa sociale si dice che può svolgere qualsiasi tipo di attività a fronte di fasce svantaggiate e mi pare che i disoccupati, che le persone in cassa integrazione guadagni, sono delle fasce svantaggiate. Ecco, quindi si tratterebbe di spostare un tipo di finanziamento che ora va appunto a finanziare la cassa integrazione e altre attività sociali, esatto, a forme che salvaguardino il lavoro, che possano, esatto, garantire anche non solo il reddito, ma anche una equità, un'etica dei comportamenti da parte imprenditoriale. Esatto, questo, oltretutto questo permetterebbe di mantenere il sistema idraulico, voglio dire, il sistema di, come se una casa avesse un sistema di riscaldamento, tale per cui se uno deve si allontana da questa casa per un certo periodo di tempo, mantiene comunque il riscaldamento sempre a un livello minimo, perché quando rientrerà basterà fare solo uno switch, voglio dire, dell'interruttore, perché sostanzialmente si ritorni al calore precedente, iniziale e vivibile. Ecco, qui la stessa cosa di un'impresa in crisi. Un'impresa in crisi la quale ha delle difficoltà, deve mantenere comunque e mantiene la sua capacità imprenditoriale anche su altri mercati, con per esempio anche su altri tipi, voglio dire, di attività, cioè tiene in attività i propri cassi integrati, la propria voglio dire, eventuali persone in sofferenza di occupazione, per poi riprendere una volta che la crisi è finita. Ecco, quindi io concluderei magari con una battuta del professor Bosio, abbiamo parlato anche del suo libro Oltre il capitalismo, vede questa prospettiva anche di un'impresa sociale che possa modificare un po' lo stato di un capitalismo che lei giudica abbastanza in difficoltà, professor Bosio? Certamente, bisogna pensare a tutte le forme di incentivazione di quelle cose che possano ridurre la crisi sociale o la crisi ambientale. Ovviamente si può pensare anche a forme di finanziamento per favorire nelle imprese una transizione a un minor consumo di energie e di materiali. E quella soluzione proposta dal professore è un'altra possibilità sicuramente interessante. Professor Fiorentini, in conclusione, comunque qualche passo in questa direzione stiamo facendolo? Sì, lo stiamo facendo, perché proprio stiamo ragionando con alcune regioni proprio per pensare che si possano prendere dei casi che per ora sarebbero anche sperimentali, ma che permettono sostanzialmente di fare in modo che le persone, ripeto, in cassa integrazione guadagno oppure in cassa integrazione, voglio dire, straordinaria, possano mantenere la propria attività e non siano, come ho già detto prima, il tutto non sia l'anticamera, voglio dire, della disoccupazione. Con questa formula imprenditoriale che ha in sé partecipazione, che ha in sé democraticità e che, ripeto, questo è un fatto molto interessante, possono anche essere SRL, SPA senza distribuzione di utili o con parziale distribuzione di utili. Grazie mille, grazie a professor Giorgio Fiorentini, che ha curato con Massimo Campedelli il libro Impresa sociale, idea e percorsi per uscire dalla crisi, edito da Diabasis. Sono 143 pagine per 12 euro, così come ringrazio Roberto Bosio, autore di Oltre il capitalismo, edito da EMI, editrice missionaria italiana, 220 pagine, 13 euro. Ringrazio anche Fabio Cantadori in regia, Anita Panizza in redazione. Ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Buona serata a tutti.